Io morto. Non è possibile! Io sono vivo! Non vedete che sono vivo? Incubo nella notte, penso di essere te. Incubo vedo terrificanti puttane brutte. Incubo mi vedo inseguire lungo un corridoio. Incubo divento come te, tormento. Incubo non mi lamento, pianto dove c'era un sorriso dentro. Incubo sono morto e tu sei vivo con lei. Nell'incubo frate sono il fan di uno spazzino, ti rendi conto? Ma poi sogno te, io e te che facciamo l'amore in ore di calore e prezioso colore di sangue nuovo, di tempo indietro che riempie le vene. Via dalla mia famiglia e sei stata te, come hai potuto, come hai fatto? Incubo, io più misero di uno spazzino, io ti amo, come hai fatto, come hai potuto? Incubo, che mi prendi per il culo, manipolatrice e lingua di serpe, mi hai infettato, come hai potuto, come hai fatto? Come hai potuto, come hai fatto? Incubo, mi hanno portato via dalla mia famiglia e sei stata te, come hai potuto? Come hai fatto? Incubo, oh no, sono ancora sveglio. Come hai potuto, come hai fatto? Il tunnel del fango mi imprigiona e tu spari con la bocca da serpe contro me. Incubo, come hai potuto, come hai fatto? Tunnel del fango, come hai potuto, come hai fatto? Come hai potuto, come hai fatto? Ha rifiutato ricchezza e sesso. Le esche da noi usate in tutto il mondo. Le droghe che più di ogni altra addormentano il pensiero e la coscienza. E ora dorme. Tu seguirai la sua stessa sorte. I ribelli vanno addormentati, eliminati. Niente deve cambiare.